9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 8 gennaio 2010 da parte di Oscar Giannino. Le regionali sono alla fine di marzo, però proprio in questi giorni, all'immediata ripresa dopo le feste, iniziano a venire al pettine i nodi delle alleanze, della composizione delle coalizioni, della scelta dei candidati premier per le regionali. E in due puntate oggi ci occuperemo del PD, più avanti anche dei problemi che gravano sul centrodestra, sul PDL. È evidente che il maggioritario, tendenzialmente quasi bipartitico, ma insomma maggioritario molto netto, che in questi anni aveva incardinato, sia pure con travagliate fasi, con lacerazioni interne, tanto nel centro-sinistra che nel centro-destra, ma che insomma si era più o meno stabilizzato in 15 anni nella vita italiana, continua a stentare in realtà. Se uno guarda alle scelte aperte al leader recente del PD, Pierluigi Bersani, certo si tratta di capire che la situazione che ha ereditato è complessa, ma insomma i problemi ai quali deve dare una risposta sono problemi che si dipannano con una pluralità di scelte che in apparenza sono non solo molto diverse, ma appaiono del tutto antitetiche in alcuni casi. È noto che in 11 delle 13 regioni in cui si vota le giunte uscenti sono di centrosinistra. Il problema per il PD di Pierluigi Bersani è quello di tentare di contenere il numero totale di regioni uscenti con la bandiera di centrosinistra che possono passare al centrodestra. Ci sono 3 regioni in cui la giunta uscente ha problemi, per così dire, molto seri alla conferma, perché una di queste è sicuramente il Lazio, dove la giunta uscente Marrazzo è stata travolta dalla vicenda dei trans, ma insomma direi che anche nelle Puglie, per l'esplosione dopo la vicenda dei dissensi politici intorno alla conferma del candidato uscente Vendola, i problemi non sono certo secondari. In Campania l'eredità della lunga questione irrisolta dell'immondizia e poi della lotta a coltello per il dopo Bassolino, anche in quel caso la situazione è delicata. In Calabria le inchieste diciamo riguardano un po' centrosinistra e centrodestra, ma anche per il centrosinistra la situazione non è molto allegra. Diciamo che all'eredità di queste regioni con presidenti o giunte esplose per vicende varie e diverse, il centrosinistra somma dei problemi di coalizione, di orientamento politico degli alleati, grazie ai quali fare l'elettore marginale per tentare di contenere i danni rispetto al centrodestra. E così si creano vicende imbarazzanti per la leadership del PD, come che tipo di risposta dare a Emma Bonino, che si candida nel Lazio prendendo la palla al rimbalzo dopo che per settimane era evidente che i leader del PD, delle diverse anime del PD nel Lazio, non riuscivano a dare una risposta alla candidatura di qualcuno di loro sufficientemente autorevole da poter raccogliere i voti necessari per confrontarsi da una parte con una donna candidata per il centrodestra come la Polverini e dall'altra per fare i conti con l'eredità delle grandi polemiche collegate al caso Morrazzo e ai trans. E così Emma Bonino si candida da sola, e un pezzo di PD, ovviamente quello cattolico, non gradisce questo tipo di scelta. Dall'altra parte c'è un problema aperto con Antonio Di Pietro, la sua IDV. La scelta di Bersani fin dall'inizio è stata quella di segnare un passo, non dico una rottura, ma un passo più netto nei confronti dei toni dell'estremismo giustizialista dell'Italia dei Valori, ma non si è capito questo che cosa porterà nell'articolazione di alleanza nelle diverse regioni. È vero che Antonio Di Pietro intelligentemente mira a massimizzare i voti, quindi non ha chiesto niente per quanto riguarda leadership o candidatura di giunta in nessuna delle regioni, però è sicuramente un altro problema aperto. In regioni come il Veneto, per il PD non si riesce a capire se la scelta debba cadere su figure esterne alla vita di partito, come indicate da Massimo Cacciari in questi due giorni, adombrando una figura come quella di Giuseppe Bortolussi, che gli ascoltatori di Radio 24 e della versione di Oscar conoscono molto bene per tutte le volte con cui insieme a lui analizziamo l'apporto che gli artigiani, i professionisti, i lavoratori autonomi danno all'economia del nord-est, il capo della CGIL di Mestre, o se invece si debba ricorrere a qualche candidato interno del PD, a qualche sindaco, idem dicasi nella Puglia del dopo Vendola, in cui Boccia ha un mandato che apparentemente è molto ampio, ma che però contemporaneamente resta il candidato che aveva perso contro Nichi Vendola alle primarie. Insomma, le scelte di fronte a Bersani sono complicate, e di fronte a queste scelte e la statura del leadership da una parte, ma anche la missione del PD a venire messa in questione. Abbiamo innanzitutto collegato con noi Riccardo Barenghi della Stampa, che io saluto. E Riccardo Barenghi della Stampa oggi, nella consueta rubrica della Iena, dice: sorpresa, Bersani è vivo. Riccardo Barenghi, come mai? Spiegaci. Buongiorno a te e a tutti quanti. Vabbè, la Iena va per conto suo, comunque sì, insomma, risponde a... quando ci azzecca, risponde: Bersani era un po' sparito, no? Non solo perché era andato in vacanza, ma era sparito politicamente, quindi tant'è che lui ieri ha detto nella conferenza stampa: mi accusano di essere scomparso, ma io parlo poco, e così via. Più che scomparso fisicamente, quindi la Iena dice che è vivo, era scomparso politicamente, nel senso che non si capiva bene, ancora non si capisce bene, nonostante la sua resurrezione, che cosa hai detto più o meno tutto tu. Insomma, il PD sta veramente messo malissimo, è un partito che ha cambiato 3 segretari in 2 anni e nessuno, neanche Bersani, ha appena cominciato, però insomma dalle prime cose che si vedono non si intravede, scusate il bisticcio, una via d'uscita. È un partito che secondo me non sta tanto in piedi, proprio come fusione di quelle forze culturali, politiche che gli hanno dato vita. Ora, entrando nel concreto, insomma, francamente in Puglia sono appesi a Casini, che dà le carte e decide lui chi deve essere il candidato del PD, deve essere il candidato governatore comunque del PD, e questo non è buono, soprattutto perché non si è capito, se uno vuole, diciamo, cambiare cavallo, deve dire perché. Allora, se Vendola ha governato male, va benissimo, ha governato male, quindi basta, fuori Vendola. Ma invece non è questo il punto, ma il punto è: cerchiamo di costruire un'alleanza a partire dalle regionali con l'UDC di Casini, perché poi in prospettiva la costruiremo, cercheremo di costruirla a livello nazionale per le politiche. Ecco, secondo me non andrà così, nel senso che Casini giocherà su 2 tavoli, come sta giocando, in modo anche molto abile, un po' furbo, ma insomma molto abile, e si tiene tutte e 2 le porte aperte. Nel caso in cui alla prossima scadenza politica nazionale Berlusconi dovesse uscire di scena, secondo me Casini non sarà mai, diciamo, il leader o comunque un alleato importante del centrosinistra, ma giocherà una sua partita con i resti del centrodestra, con i Fini e così via. Quindi mi pare che questa strategia, che più che di Bersani si possa ricondurre a D'Alema, rischi di essere fallimentari. In più, voglio dire, oltre a appesi a Casini, adesso la Bonino, per me va benissimo, è una donna politica che io stimo molto, però non può il PD, che ha più o meno il 30% di voti, il maggior partito di opposizione, e subire, diciamo, una candidatura già fatta, no, di un altro partito. Allora, se si voleva scegliere la Bonino andava benissimo, ma bisognava scegliere la Bonino, no, diciamo, andare a rimorchio di una candidatura già presentata. Insomma, mi sembra che sia un partito allo sbando, e le regionali io credo che saranno un vero tsunami per il PD, e non so che cosa succederà dopo. Ma io non ho capito una cosa, perché viene attribuita ad D'Alema una strategia che, se consistesse in questo, sarebbe una specie di strategia, non dico suicida, ma insomma autolesionista. Allora, tu hai correttamente, secondo me, poi questo è di punto di vista, ma secondo me correttamente hai fatto un'analisi per la quale, nel caso in cui la strategia dell'offerta mediana, quella che segue l'UDC di Pier Ferdinando Casini, tenendo aperti il dialogo, le trattative di qua e di là, e poi tentando di chiudere alleanze in vista delle regionali nelle regioni in cui è più determinante per la vittoria, ma tanto dell'una che dell'altra parte, quindi insomma con una scelta che non è proprio precisissima dal punto di vista di dove poi porti politicamente come coalizione nazionale alle prossime politiche, ma ipotizziamo, secondo me, come correttamente hai fatto, che in quel caso, nel caso in cui questa strategia andasse bene, che per Berlusconi e centrodestra le cose non si mettessero propriamente benissimo dalle regionali in avanti, alle prossime politiche Casini quindi sviluppasse ulteriormente questa sua strategia. E dici correttamente tu, Barenghi, ma a quel punto ci si può aspettare davvero che Casini si mette a fare l'uomo che fa vincere la sinistra? Molto difficile, dici tu. Io sono abbastanza d'accordo. In questo caso, in che cosa consiste la strategia di di fare la scommessa su Casini da parte del PD? Questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere a D'Alema. Come, insomma, D'Alema è una persona, un politico molto abile, molto intelligente. Dopodiché, però, insomma, le sue mosse pratiche negli ultimi 15 anni, cioè da quando l'abbiamo visto proprio in prima linea, non è che abbiano mai portato a grandi risultati. Certo, alcuni sì, e non irrilevanti, per carità. L'invenzione di Prodi come leader dell'Ulivo è stata vincente, si sono vinte le elezioni nel 96, dopodiché poi è successo quello che è successo. Però insomma, poi il bicamerale, i vari D'Alemoni, le varie cose non hanno mai funzionato, no? Quindi insomma, anche questa secondo me non funzionerà, perché è una cosa molto, come posso dire, cerebrale, cioè che non si basa, diciamo, sulle reali intenzioni degli interlocutori, in questo caso di Casini, il quale sta giocando una partita tutta sua, che è contro il bipolarismo, che è per un rimescolamento, diciamo così, per capirci, proporzionale delle forze in campo, e che quindi, diciamo, non sarà, lui non vuole stare in uno dei due schieramenti come sono attualmente. Vuole rimescolarli, vuole giocare un altro gioco, e quindi insomma pensare che nel 2013 ci sarà un bel centrosinistra alleato con Casini, di cui magari lo stesso Casini sarà il candidato premier, secondo me è totalmente illusorio. Poi, dopodiché, posso sbagliare io e potrà avere ragione D'Alema, ma insomma a naso al momento mi sembra proprio una strategia perdente. Dopodiché uno dovrebbe dire sì, ma allora quale sarebbe la strategia vincente? Forse l'unica cosa per il PD in questo momento è cercare di perdere al meglio, perché perderà le regionali, ovviamente, ha detto Duce, a 13 regioni, quindi insomma la partita è a cercare di perdere il meno possibile. Perdere al meglio significa non solo perdere il meno possibile, ma anche cercare di darsi un'identità e una dignità politica, senza stare appesi ai giochi, al vento di quello o di quell'altro. Insomma, non è evidente che il PD non ha un'idea, no? Non ha un'idea. Da una parte, dicevamo prima, in Puglia va Casini, mette il veto su Vendola e quindi dice sì, va bene, niente Vendola. Dall'altra, nel Lazio, la Bonino si candida e dice beh, vabbè, ormai se candida la Bonino, che facciamo? Mica possiamo dire no alla Bonino, giusto, però potevano dirlo prima, potevano candidarla loro la Bonino, no? In Campania sono, come si dice, carissimo amico, e insomma terranno probabilmente le tre o quattro regioni del Cere, ex regioni rosse, insomma Umbria, Lazio, Marche e Toscana, Emilia Romagna ovviamente. Per il resto mi pare che ci sarà, diciamo, una debacle piuttosto. Allora mi prenoto per il proseguo del ragionamento con Barenghi, che riguarda invece i rapporti tra PD e la sinistra, chi sta a sinistra del PD, perché io personalmente non capisco, visto che ogni forza politica fa la sua strategia, perché non debba essere interesse nel PD, laddove per esempio aveva una giunta guidata da Vendola che insomma aveva ben fatto, sia pure in una regione complicata come tutte le regioni non solo del sud italiano, però nei confronti di chi fa la sua strategia verso il centro, l'elettore mediano, cioè l'UDC, non capisco perché il PD non debba fare una strategia altrettanto forte, ancora più decisa, soprattutto laddove è reduce da esperienze di governo che hanno funzionato, abbastanza funzionato, guidate da un esponente come Vendola che veniva da chi stava a sinistra del PD, per fare una strategia nazionale che è quella di rilancio dell'eventuale alleanza con chi sta a sinistra. Se io fossi nel PD ragionerei anch'io su due tavoli, per così dire, non solo verso il centro ma anche verso la sinistra, a meno che non si tratti di una scelta da parte di Bersani che è quella di privilegiare il tentativo del PD di tornare verso la parte mediana dell'elettorato. Ed è di questo, dopo avervi ricordato il nostro numero verde 800 24 00 24 per le chiamate, ed è proprio di questo che intendo parlare con Stefano Folli, che si è collegato con noi. Grazie Stefano Folli. Ciao, come va? Grande notista politico del Sole 24 Ore, ogni giorno ci aiuta a capire con il suo equilibrio e la sua ragionevolezza l'eccesso di pizzico di follia che c'è nella politica italiana. Ecco, dicevo, a meno che Stefano, il PD non abbia invece con Bersani, sia pur gradualmente, messo nel proprio obiettivo quello di correggere in maniera molto sostanziale il suo approccio, il suo rapporto con l'elettorato mediano, cioè quello centrista. Allora in questo caso capirei di più che non giochi su due tavoli e quindi che non rilanci anche sul tavolo di chi sta alla propria sinistra. Devo dire, fino a questo momento nelle scelte per le regionali non c'è un PD fortemente caratterizzato per tentare di ridar vita ad alleanze a sinistra, cioè dove già ci sono va bene, ma la carta di Vendola fa capire che non è una priorità per il PD. Però siamo in presenza di questo, perché poi mi pare che in realtà l'UDC di Casini sta scegliendo un po' per i fatti suoi, cioè è più Pier Ferdinando Casini che mena le danze di quanto non sia Bersani che abbia preso l'iniziativa, tanto è vero che poi gli esponenti cattolici del PD sono più su un atteggiamento di prudente critica molto pesante nel caso della Benigni piuttosto che di un apprezzamento esplicito. Tu che impressione hai? Ma in parte giusto lo diceva Barenghi prima, cioè c'è molto aspetto cerebrale in questa strategia di cui possiamo scorgere un po' le linee generali, però effettivamente rischia di essere un po' astratta. Secondo me il tentativo è quello di accreditare il Partito Democratico come forza solidamente socialdemocratica e quindi intanto rassicurare tutto quello che già esiste, cioè tutta la base, i militanti, i quadri intermedi del potere locale dove c'è ancora. Ecco, e questo è il primo passo. Poi il secondo passo è di piano piano prosciugare tutto ciò che c'è a sinistra, ecco perché non si dà spazio a Vendola in Puglia, perché si vuole, come dire, mandare il messaggio che non c'è credibilità a sinistra del Partito Democratico. Il Partito Democratico è abbastanza consapevole del suo rapporto con la società da interpretare, da riassumere anche il messaggio di quella che una volta era l'estrema sinistra, però in una chiave più socialdemocratica, più solida, eccetera. E poi naturalmente si sviluppa l'idea di diventare un interlocutore dei ceti medi, un interlocutore di una società produttiva a cui Bersani ma anche D'Alema sono sempre stati sensibili. In che cosa cambia questa strategia rispetto allo scenario di Veltroni, per esempio? Nel fatto che appunto si cerca, si capisce che tutto questo non è sufficiente e che c'è bisogno, per scompaginare il centro, per conquistare il centro, di stabilire alleanze in quella direzione. Quindi ecco il ruolo di Casini, con tutte le contraddizioni che avete detto e che non voglio ripetere. Tutto questo va benissimo se non fosse appunto molto contraddittorio nella pratica quotidiana, molto lento nei vari passaggi. Bersani ha detto di sé: sono un alpino, ho il passo lento dell'alpino, però purtroppo qui la situazione italiana è molto più inafferrabile e più in movimento rispetto a quella che è stata l'esperienza prima del Partito Comunista e poi delle varie trasformazioni del Partito Comunista negli anni scorsi, quindi si rischia una sfasatura fra una strategia che ha bisogno di tempi lenti anche per riassorbire le varie contraddizioni che incontra il suo passaggio e i ritmi poi di sviluppo o di crisi della società italiana. Da ultimo direi questo però, che tutto questo può andare anche bene, può calarsi dal cielo dell'astrattezza e diventare un'ipotesi politica concreta se ci fosse una riforma della legge elettorale, perché con una che è il vero obiettivo da perseguire, una riforma della legge elettorale sul modello tedesco, o se si vuole sul modello francese, intanto emerge questa cosa, ma soprattutto sul modello tedesco, è l'unica possibilità per attraversare la corona del lago. Altrimenti con questo sistema elettorale o con un sistema elettorale analogo a questo è evidente che tutto questo non funzionerà mai, salvo in tempi molto lontani, quindi oggi non prevedibili, in cui non ci sarà più Berlusconi, ci saranno altri scenari, però stando così le cose oggi come oggi, o c'è una riforma della legge elettorale che favorisce una riaggregazione di questa sinistra, il Partito Democratico, con forze di centro, oppure è chiaro che non... non se ne esce da questo vicolo cieco in cui siamo sostanzialmente. Eppure non si direbbe che la riforma elettorale sia proprio in cima alla graduatoria delle cosiddette riforme su cui nel dopo Duomo sulla faccia di Berlusconi si è aperto questo confronto, seppur a distanza. Bersani ieri ha ristabilito la priorità dal suo punto di vista degli interventi che riguardano l'economia. Siamo in presenza di più versioni tra processo lungo, nuovo lodo corretto e così via, perché ovviamente dal punto di vista del centrodestra c'è la giustizia come elenco di priorità. La riforma elettorale a me non pare attuale. No, ma non c'è interesse a metterla, però o riuscirà, diciamo, Bersani, D'Alema, Casini, attraverso una serie di operazioni politiche successive, ad arrivare a una posizione tale da poter mettere sul piatto la riforma elettorale come necessità ultima, e questo dipende anche da loro abilità tattica nel riuscire a inserire questo tema in un eventuale confronto con la maggioranza, di cui per adesso non si vede nulla di serio. Insomma, questo confronto sulle riforme per adesso è una cosa estremamente vaga, ma il giorno che si dovesse arrivare a qualcosa di più concreto, spetterà a loro riuscire, io sono molto scettico al riguardo, riuscire a inserire l'elemento legge elettorale, perché altrimenti tutto questo castello di cui stiamo parlando non avrà uno sbocco concreto, difficilmente lo avrà, almeno lo avrà fra, insomma, un numero di anni tali che adesso è inutile stare discutendo. Esattamente, sì. Allora, pausa per la comunicazione pubblicitaria, poi Ferdinando da Milano e Carlo da Monza. Eccoci tornati in studio. Le difficoltà per il PD di Pierluigi Bersani in vista del regionali, le alleanze tra i rapporti con il centro dell'UDC, le autocandidature come quella della Bonino, le spaccature interne in merito a come affrontare la scelta in Puglia, visto che non è Nichi Vendola il presidente uscente sostenuto dal PD il candidato su cui il PD sta indirizzandosi. Le incertezze nei confronti delle regioni del nord, Veneto da una parte e Piemonte dall'altra, dove certo le prospettive sono complicate, ma sarebbe interessante capire che tipo di figura e che tipo di dialogo con i centri produttivi e l'impresa queste candidature in quelle regioni potrebbero esprimere. Ecco, di tutto questo stiamo parlando, sentiamo le vostre prime telefonate all'800240024. Ferdinando da Milano, prego Ferdinando. Buongiorno. Dica. Volevo darle tre elementi di riflessione, non per l'immediato ma per il futuro. Numero uno, l'appoggio incondizionato alla Polverini da parte di Casini. Questo fa capire che lui si sta avvicinando moltissimo, si è già avvicinato a Fini per quanto riguarda lunghe prospettive politiche. Numero due... E questo, diciamo, riguarda il post Berlusconi. Questo è il post Berlusconi. D'Alema ha capito, quando era diventato premier, che il PD non sarà mai in grado di governare la nazione, perché non ha un appoggio interno, sono internamente che non riescono a coalizzarsi, a rendere una cosa unica tanti ragionamenti. E allora lui cosa fa? Risponde sì e ni, perché poi dopo il centro che si verrà a creare gli ha già promesso la Presidenza della Repubblica, lui è arrivato, basta. Ah, lui di, lei, lei, lei di una tesi, insomma, nuove, un po' cinica. Scusi, non ci sono molti nuovi, tipo quella ragazza che è stata eletta lì al Parlamento Europeo, che ha preso più voti di Berlusconi, Deborah, che poi parlare di politica. Parla solo per attaccare, ma non di programma, non di... E di conseguenza l'Italia andrà a finire al centro e il PD sarà come il vecchio Partito Comunista, che mangiava nel piatto di tutti, facevano i fatti loro e poi c'erano gli altri che si sporcavano o si lavavano le mani. Bene, Ferdinando, la sua opinione è un po' tagliente, diciamo, nei confronti di chi vota per il PD. Immagino la reazione sarebbe quella di darle qualche verbale legnata sulla testa, visto lei descrive D'Alema come uno che sta facendo il tutto per andare al Quirinale. Carlo da Monza, prego Carlo. Sì, buongiorno, sono io stavolta. Sì. Io sono di Arcore, sono nato a Monza, si vede che voi avete letto del mio pensiero, io ho detto che ero di Arcore. Comunque... non sento un eco, non sento niente, spero che mi sentiate. No, sei collegato, è collegato. Malgrado stia chiamando da Arcore, è collegato. mi piace che vabbè, niente, dai, allora non le faccio i complimenti perché non sento. Bravo, perché poi da Arcore non le voglio. Ecco. Da Arcore diventa un problema. Spero che non li voglia, lo fa per evitare la reazione del suo pubblico di sinistra, perché Arcore viviamo bene tanto quanto a Vimercati. Ma lo so benissimo, ci mancherebbe altro. Arcore è un luogo dello spirito oramai, trasumanato. In 15 anni Arcore è diventato uno dei posti come la Valle di Josafat, cioè è un posto biblico, lei capisce? Cioè, lei in realtà, certo, è fortunato a vivere. Io ho trovato la mia Esther, sono andato a finire in questo luogo biblico ad Arcore. Va bene, allora, diceva niente, Carlo. Tornando a lei, si fa delle domande sul perché il PD viaggia di qua, dovrebbe organizzarsi di là, se lei fosse del PD farebbe certe cose. Il problema del PD è che non c'è il PD. Come non c'è il PD? Ma scusi, prenda un nome a caso, sì, del PD, sia a livello regionale che nazionale. Poi ne prenda un altro a caso e veda quali di questi due hanno delle cose in comune, più del 30%, perché fino al 30% di accordi li trovano. Lo so, però sa Carlo, è la storia di un partito che nasce con una convergenza di filoni diversi, culture diverse. È chiaro che Enrico Morando o Reichlin, per restare solo alla storia post-comunista, sono persone molto diverse, un liberal. Quindi figuriamoci poi con l'innesto di chi veniva dalla Margherita. Mi scusi, io sono di centrodestra, vorrei un'opposizione che facesse delle opposizioni, lasciamo perdere la solita battuta anti-berlusconismo. Però un'opposizione sulle cose, non sui massimi principi, perché dire che tutti sono per la vita, tutti sono per il lavoro, tutti sono per la piena occupazione, ma che cavolo di cose sono queste qua, cosa servono? Bisognerebbe dire come fare queste cose. Io credo che nel centrodestra qualcuno cerchi di fare, anche se a me il centrodestra piace al 65%, ma di là non riesco a vedere proprio niente, tranne qualche caso singolo, ma che non si può coagulare con gli altri. Oimè, Carlo, temo che il fatto, se viene meno una forza nettamente a vocazione maggioritaria nel centro-sinistra, io temo che l'effetto sul centro-destra, alla luce di quello che si vede tra Casini, Fini e Berlusconi, non sia molto diverso. Ma questa è una mia opinione personale. Io rimango dell'idea che l'Italia abbia bisogno di una forte cura maggioritaria e rimango dell'idea che chi critica il maggioritario dicendo ma vedete che il frazionamento che ha prodotto non è inferiore, ci sono tanti esponenti non solo della Prima Repubblica che la pensano così, derivi dal fatto che noi abbiamo adottato un maggioritario scazzonte, continuiamo a pagare i partiti quando prendono il meno dell'1%, quindi ciò che conta davvero, cioè il criterio di attribuzione per il rimborso elettorale, abbiamo parlato pochi giorni fa, è quello che in realtà definisce la caratteristica di fondo di un sistema politico. Hai voglia fare leggi elettorali maggioritarie più o meno discutibili come questa che non consente di scegliere i candidati? Se tu dai il diritto al rimborso a chi prende lo 0,8%, sarà quello il comportamento politico a cui si ispira il sistema? Sarà quella la ragione della nascita, della perduranza in vita delle diverse sigle politiche? Quindi è questa la ragione per cui, secondo me, modestissimamente, il maggioritario non funziona. Ma può essere che io sbagli, cioè può essere che nel centrodestra davvero convenga sperare nella divisione e nella perdita di voti progressivi del PD sul totale dei voti del centrosinistra. Io penso che in quel caso, con un centrosinistra in cui c'è la componente giustizialista che aumenta i voti, c'è la componente di un'estrema sinistra che tenta di sopravvivere, c'è un PD che con ogni probabilità va incontro anche a scenari di divisione, temo che questa stessa cosa si riverbererà anche dall'altra parte, poiché, ripeto, viviamo in un sistema che dà l'accesso ai rimborsi a chi becca lo 0,8, non dimentichiamolo mai, per cento dei voti. Ora, intervista stamattina dell'Avvenire dell'onorevole Carra, con Bonino fallisce partito plurale. Veniamo a questo secondo aspetto, soprattutto pensando al problemi aperti nel PD della candidatura della Bonino del Lazio. Che cosa ha sostenuto al giornale della CEI l'onorevole Carra? Con la Bonino non si allargherà il consenso, si trasformerà piuttosto il confronto elettorale in uno scontro ideologico che avrà inevitabili riflessi all'interno del PD. Così Enzo Carra, deputato cattolico del PD, in un'intervista ad Avvenire, ha ammonito sulla possibilità che il segretario del partito Pierluigi Bersani appoggi la candidatura di Emma Bonino alle elezioni regionali per il Lazio, adombrando chiaramente un'ipotesi uscita dagli esponenti ex Margherita. E su questo aspetto in particolare, che secondo me avrebbe un connotato politico nazionale al di là della difficile scelta da esercitare per il post Marrazzo a Roma, perché è ovvio che se esponenti di primo piano cattolici che provenivano dalla Margherita e dal PP prendono la via del disimpegno, come ha già fatto Rutelli, come ha fatto Linda Lanzillotta, quindi storie politiche diverse, ma questa volta lo fanno di fronte a un'ipotesi di un PD che dica sia Emma Bonino, c'è un problema nazionale, perché a quel punto vuol dire che quel coagulo di culture su cui l'idea stessa di PD nasceva e che Bersani voleva in qualche misura rilanciare, sia pure mettendo a posto rispetto all'eccesso di identità maggioritaria di Veltroni, beh, a quel punto si compromette in maniera forse inevitabile. Ed è per parlare di questo che in seconda parte di trasmissione abbiamo invitato, e le ringrazio, Paola Binetti, deputato del PD, buongiorno onorevole Binetti, e Rita Bernardini, deputato del PD, ma naturalmente per la componente radicale. Buongiorno Bernardini. Buongiorno. Allora, io comincerei da la Bernardini. L'ipotesi mia è questa: Emma Bonino è una candidatura di fronte alla quale tutta la stampa italiana non fa altro che esprimere rispetto, tutti ricordiamo la sua capacità di beccare voti in maniera trasversale e così via, però c'è questo problema delle conseguenze per il PD nel caso si dica sì all'ipotesi della Bonino. Allora, in questo caso io chiederei a Rita Bernardini, andando semplicemente a questo punto, di fare una specie di micro arringa per dire ai cattolici del PD per quale ragione non avrebbero, per così dire, niente da temere di ciò che invece temono, come abbiamo letto nell'intervista all'Avvenire di Carr. A differenza di come si comportano alcuni cattolici, noi non abbiamo mai fatto preclusioni, non abbiamo mai posto veti su persone, e invece ci rendiamo conto che loro pongono in continuazione veti. Io vorrei che non si facesse l'economia, però capisco che bisogna trattare questo argomento, però che non si facesse l'economia anche dell'analisi che fanno i radicali, che occorre chiudere con un sessantennio partitocratico, con un regime partitocratico, e qui mi pare che rientrino tutti i temi che lei, Oscar Giannino, ha richiamato, dalla riforma elettorale, perché non è che il popolo italiano non si sia espresso in modo chiaro sulla riforma elettorale che era necessaria al nostro paese, con il referendum vinto a stragrande maggioranza nel 1993. Il problema è che il sistema partitocratico ha fatto in modo che in realtà resistesse tutta quella parte che ha impedito a questo paese di fare le riforme. Questo è il problema. Se dobbiamo cambiare per la riforma della giustizia, per la riforma istituzionale, io credo che la candidatura di Emma Bonino ci sia tutta, sia veramente pregnante, e io credo che di questo abbia bisogno il nostro paese piuttosto che di divisioni. Io concludo dicendo che con Paola Binetti ed Enzo Carra, per esempio, ci siamo trovati uniti quando, come radicali, abbiamo organizzato l'iniziativa Ferragosto in carcere. Ora, la situazione delle carceri sappiamo quella che è di totale illegalità. Allora, vogliamo porre mano a questo problema che dà un'immagine dell'Italia addirittura peggiore di stati antidemocratici? Probabilmente la Turchia adesso è sicuramente più avanti di noi per quanto riguarda le carceri. Quindi ci siamo trovati uniti su obiettivi precisi. Noi non poniamo veti, vogliamo che in Italia si affermi finalmente una riforma di questo sistema. Onorevole Binetti, onorevole Bernardini dice, insomma, non mettiamo veti, tutti insieme possiamo battere obiettivi da posizioni diverse ma convergenti. Guardi, che tanto veramente molti auguri a Rita Bernardini, con cui ci troveremo lunedì pomeriggio in aula proprio per discutere la sua mozione, quella che lei ha presentato per le sue carceri, che io ho sottoscritto. Quindi voglio dire, ci sono dei punti di convergenza importanti e forti. Però il punto vero è che noi personalmente, io non ho posto nessun veto alla Bonino, ho semplicemente sollevato il problema, che chiaramente ha una responsabilità mia personale e che in qualche modo interpreta il sentire di una parte del mondo cattolico. Chiaramente il mondo cattolico è un mondo estremamente variegato, nel quale ci sono tante sensibilità diverse e anche tante linee, diciamo, politicamente e strategicamente diverse. Però il mio richiamo è questo: nell'immagine del paese Emma Bonino ha due caratteristiche forti. Una è quella della donna intelligente, capace, determinata, che per gli obiettivi in cui crede è capace di spendersi fino a dare, potremmo dire, la vita. Questa è l'immagine positiva di una donna che in qualche modo stana l'anonimato politico di quelle persone che preferiscono, come dire, la versione pallida dei propri ideali, delle proprie idee, per non essere occasione di disturbo, in qualche modo per una sorta di opportunismo e di comodità. Trovo, onorevole Binetti, non la voglio interrompere, ma solo come elemento di riflessione per chi ci ascolta, che questa sua prima caratteristica sia propria di Emma Bonino, sì, ma sia propria di molte di voi politiche donne, e secondo me è ciò che fa la differenza tra molte di voi rispetto agli uomini. Mi scusi, infatti, se interrompo. Il discorso delle donne in politica, ma questo è un inciso, non è il discorso delle quote rosa, come se si trattasse di una minoranza da proteggere, è il discorso veramente innovativo dello stile in politica. Comunque, la seconda caratteristica. La seconda parte sono i contenuti delle battaglie di Emma Bonino. Allora, io gliene elenco alcuni, che sono quelli che sono impressi nell'immaginario collettivo di un paese che ha letto in questa chiave le riforme che l'hanno attraversato. La battaglia per il divorzio, la battaglia per l'aborto. Le faccio presente che quando ci fu il referendum sull'aborto, quando si dice i cattolici hanno perso il referendum sull'aborto, lo persero anche i radicali per un motivo uguale e contrario, perché noi chiedevamo politiche, diciamo tra virgolette, di contenimento e loro volevano invece politiche di massima liberalizzazione. La battaglia per il divorzio breve, la battaglia per le coppie di fatto, la battaglia ultima per Eluana, diciamo, per la vicenda Eluana Englaro. Rita sa bene che sono presenti in commissione 2500 emendamenti a firma dei radicali, molti dei quali richiedono esplicitamente, chiaramente, dichiaratamente anche un approccio di tipo eutanasico. Nella mente di tutti questi contenuti attraversano in modo fortemente conflittivo tutta quella che è la cultura, la tradizione e il sentire di una parte del paese. Quindi il no non è a Emma Bonino. Gli dica alla mia amica Rita Bernardini, se l'ha, che con tutta la simpatia che lei sa benissimo che ho per lei, con tutto lo scambio di idee, di cui mi fa piacere condividere il commento su molte delle vicende parlamentari che condividiamo, ma anche se si fosse candidata lei, la risposta sarebbe la stessa. Non è certamente una cosa a Emma o a Rita. È una questione di fondo su alcune questioni che, diciamo, non solo sono pre-politiche, sono fondamentali per una parte dell'elettorato, che poi vota un po' a sinistra, un po' a destra, come quello cattolico, come ci ricorda l'onorevole Binetti. Quindi problema aperto. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi abbiamo diverse telefonate da parte vostra. Raffica di SMS da parte di ascoltatori del PD, molto esacerbati. C'è chi accusa noi dei media, come se fossimo un'unica cosa, di dare troppo rilievo a esponenti come l'onorevole Carra, ma chi era l'onorevole Carra, oppure troppo rilievo alla posizione dell'onorevole Binetti, ma chi era l'onorevole Binetti. Escano dal partito se non si adeguano ai deliberati degli organi. Ma la domanda mia è: c'è un deliberato degli organi relativo a chi candidare nel Lazio o a chi candidare? Non mi pare ancora, però, quindi io inviterei tutti a stare un pochino più calmi. È evidente che c'è una parte dell'elettorato cattolico che, a seconda di come orienterà le scelte, di come il segretario Bersani, ne stiamo parlando in maniera aperta e rispettosa, orienterà le sue scelte sulle candidature, darà dei segnali politici su qual è il futuro, oltre che il presente dell'evoluzione politica che ha in mente per il suo PD. Tutto qui, senza come al solito procedere a insulti e a scomuniche nei confronti dell'informazione, cioè mia, ma questo va bene, o nei confronti di questo o quell'esponente politico. Aldo da Roma, prego Aldo. Buongiorno, appunto sono uno degli elettori del Partito Democratico, anzi iscritto. Io quello che volevo dire è che non è vero che il Partito Democratico è diviso su tutto. Siamo divisi sugli argomenti etici, capiamo di che cosa si tratta, no? Sulla fecondazione, eccetera. Siamo perfettamente uniti ideologicamente, sia in politica interna, in politica estera e in politica economica. le divisioni presunte sono di chi non accetta appunto le decisioni del partito sostanzialmente, cioè di chi vuole assolutamente essere protagonista, magari perché era abituato nell'ex Margherita. Io sono un elettore dell'ex Margherita, ma non ho nessuna difficoltà a dirlo. Non hanno la stessa visibilità e quindi preferiscono uscire dal partito. Escano pure, voglio dire, vuol dire che lasciano il campo ai D'Alema e ai Veltroni, che invece sono abituati nel vecchio PC a essere protagonisti. Questo è quanto volevo dire. Grazie Aldo. È vero che i media naturalmente lavorano ogni giorno, anche perché ovviamente le distanze emergono, per esempio in materia di giustizia. Insomma, tra Franca Chiaromonte, che è d'accordo con l'onorevole Compagna su ritorno all'immunità, Morando che dice un'altra cosa e altri che ne dicono altre, per il no ogni collaborazione, effettivamente a me pare che qualche differenza su come andare incontro a questa richiesta impellente di Berlusconi sulla tutela sua a tempo ci sia anche all'interno del PD. Michela da Milano, prego Michela. Buongiorno, sono un elettore sempre, cioè prima di esse, quindi io vengo dall'altra parte del PD, e parlando tra mi sembra che il PD stia scontentando i suoi elettori nella ricerca di attrarne altri al centro, se recuperare quelli persi a sinistra, prima cosa. Secondo, lei non ha neanche accennato al problema della Lombardia, di spero che perderemo, ma non si è neanche. Cioè, noi perdiamo troppe parole sul suo collegamento. Mi pare di aver capito che lei era arrivata al punto di dire non abbiamo neanche citato la Lombardia, un po' con la certezza che tanto si perde. Però, se capivo bene, lei stava dicendo, però valeva comunque la pena anche in Lombardia capire bene che tipo di segnale dare alla società, eccetera, con la candidatura. Se era questo il senso, però ci dobbiamo scusare con lei, Michela, perché non si capiva troppo quello che stava dicendo. È vero, anche in Lombardia il segnale da dare ai ceti produttivi è molto importante. Io avevo citato il Piemonte e il Veneto, la Lombardia ricade nella stessa famiglia dei problemi, per così dire, quelli in cui si dà per scontato che tanto si perde, però per porre i semi nel futuro l'essenziale è capire, c'è modo e modo di perdere, ci sono figure e figure, perché soprattutto nel nord c'è un problema settentrionale che è stato uno dei classici criteri di lettura della sconfitta poi alle politiche del PD e del centrosinistra. Tonia da Taranto, prego Tonia. Grazie, volevo complimentarmi per l'ampio dibattito e di confronto che sta nella trasmissione oggi. Allora, niente, volevo testimoniare che nella mia città e nella mia provincia i partiti praticamente hanno fallito il loro compito, nel senso che ai comunali hanno vinto le liste civiche e alle provinciali ultimamente nel ballottaggio il candidato di sinistra ha avuto nell'apparentamento proprio i partiti dell'UDC. Voglio capire, cioè la gente è andata a votare con appena il 30%, nessuno si sta preoccupando che queste alleanze provocano sempre più astensionismo, sempre più allontanamento dei partiti dalle reali situazioni, dei reali bisogni della gente. La gente non è, voglio dire, più con l'anello al naso, riesce a capire che tutte queste manovre vengono effettuate esclusivamente per garantire il posto ai soliti noti e non ai soliti ignoti. Quindi su temi interessanti, quale voglio dire la spesa sociale, i bisogni sociali della gente, vedo che un Vendola nella nostra regione, come lei ha citato, che ha governato bene, è stato riconosciuto da tutti gli esponenti che adesso rifiutano addirittura il confronto alle primarie, hanno riconosciuto che Vendola ha operato in questo senso. Voglio dire, quando non si è d'accordo su questi progetti, qual è l'alternativa per dire no a Vendola? Non va bene che ha alzato la spesa sociale nella nostra regione? Grazie. Prego Tony. Effettivamente, anche a mio giudizio, la modalità con cui il centro-sinistra del PD sta uscendo dal rapporto con Vendola rispetto alla non modalità con cui ne affronta il bilancio denuncia un problema serio. Io che conosco poi la Fede Boccia e così via, è chiaro che andare con questa modalità a convergere su chi aveva perso poi le primarie rifiutandole oggi è un problema, inevitabilmente non viene letto da fuori come un elemento di forza. Una domanda ancora all'onorevole Binetti per chiederle. In questo complicato rapporto con l'UDC di Pier Ferdinando Casini, in vista di un futuro che potrebbe riportare il PD con Bersani a dialogare esplicitamente cercando alleanze più solide verso il centro dello schieramento italiano e verso il mondo cattolico, in questa prospettiva le chiedo è utile accettare l'idea di pagare qualche, tra virgolette, prezzo sulla coerenza politica, come lei ha spiegato nel suo primo intervento, inevitabilmente rappresentare la candidatura di Emma Bonino nel Lazio, oppure sono due prospettive lei, così diverse che non ha senso? No, no, ma lei ha posto il problema molto correttamente, ma si è già dato la risposta. Nel momento in cui Pier Ferdinando Casini ha detto tanto esplicitamente la disponibilità ad appoggiare Boccia in Puglia, quanto altrettanto esplicitamente la indisponibilità ad appoggiare la Bonino nel Lazio. Perché la Bonino, proprio perché è portatrice di una cultura scolpita, di una cultura forte, non di una cultura che in qualche modo diventa il ni, così ma anche. La Bonino è persona di idee chiare, di principi fermi e di determinazione. Allora, questa immagine però la colloca esattamente nell'area in cui sta, cioè un'area radicale. Agli interlocutori che prima dicevano, non so, Binetti, Carra, tutto quello che vuole, ma la Binetti e Carra sono del Partito Democratico, sono iscritti nel Partito Democratico, hanno partecipato alle primarie del Partito Democratico, comunque si voglia sono stati fondatori di questo partito. E laddove invece i radicali si collocano come ospiti di una struttura specificamente culturalmente identificata all'interno di un partito. E perché sono ospiti? Perché la loro capacità di appeal generale nel paese non gli permetteva di raggiungere quel 4%, quell'8% Camera e Senato per poterlo vincere. Allora, queste sono cose da chiedersi. L'altra cosa da chiedersi è: Bersani ha vinto le primarie. La componente radicale delle primarie, rappresentata da Ignazio Marino, ha perso. Il paese si è già, non il paese, attenzione, il Partito Democratico si è già espresso. Si è espresso per una linea culturale che Bersani possa realizzare attraverso sia pure uno spostamento verso sinistra. Bersani ha sdoganato la parola sinistra durante le primarie, però uno spostamento verso sinistra che mantenesse il dialogo forte, chiaro e aperto verso il centro. La candidatura Bonino sul piano simbolico forte dice una cosa diversa. Benissimo. Sono le cose di cui bisogna tenere conto. Il tempo incalza, io ringrazio Nuno Binetti. Con Rita Bernardini ci diamo appuntamento perché torneremo sulla questione di Emma Bonino del Lazio, di che cosa questo significa anche nei confronti di un rapporto con un tema, ne abbiamo parlato troppo poco oggi, che è il giustizialismo. La componente radicale che cosa ha su questo da dire, ma ripeto, di quale regionali torneremo su questo, prendo l'impegno con Rita Bernardini e con Emma Bonino. Buongiorno. Fine trasmissione, ci sentiamo lunedì. Grazie a regia Paolo Corleoni e in redazione Alessandro Marco Tulli. Radio 24. La passione si sente.